personaggio di passaggio con il quale non riesco a conversare è la morte. Quella io ha sempre fretta, pazienza, l'aspetterò.